Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata di Un abuso al giorno. Vi ricordo il mio blog sull'home page del Sole 24 Ore, Guardie o Ladri, oppure lo trovate attraverso un motore di ricerca. Sul mio blog ho spesso scritto nel passato di San Marino e ho scritto anche di cose che interessavano l'allora segretario di Stato agli esteri, il simpatico Fiorenzo Stolfi. Lui ieri è stato già ospite con noi per la seconda puntata che ho dedicato al caso Licenzopoli. Me la faccio brevissima perché sono tre giorni con oggi che ne parliamo. Una sentenza che ha scosso San Marino perché ha svelato un sistema di controlli poco efficaci per capire quanti e quali imprenditori potessero o volessero insediarsi in quella Repubblica. Controlli che non rendevano facile capire chi c'era, chi non c'era, se le residenze o meglio i luoghi in cui indicavano la propria sede legale effettivamente contenevano una o più società. Insomma, situazione un po' complessa in cui i controlli si rifacevano alla mente zelante, come dice la sentenza, di dirigenti che si ricordavano se in uno o più luoghi c'era la presenza appunto di uno o più imprenditori. Tutto questo lo stiamo affrontando perché i due paesi, San Marino e l'Italia, si apprestano a chiudere degli importanti accordi e soprattutto tutta la comunità internazionale da molto, forse troppo tempo, ha gli occhi puntati sulle operazioni di trasparenza di San Marino, e va dato atto ai governanti che si sono succeduti di aver cercato di fare sempre un passo in avanti. Ma rimane questa sentenza molto difficile, con grossi strascichi. Abbiamo sentito di commissioni interne, abbiamo sentito anche di scetticismo nella voce appunto dell'ex segretario di Stato agli esteri Fiorenzo Stolfi. Buongiorno Stolfi, è di nuovo con noi. Buongiorno. Stolfi, io in uno dei miei articoli sul blog chiedevo a tutti i governanti sammarinesi, ai politici sammarinesi, ai politici italiani: ma è possibile effettivamente stringere questi accordi, firmarli prima di questa famosa revisione della legge 2003-65, se non ricordo male, proprio sui controlli? Io mi chiedevo e domandavo a voi: ma non sarebbe meglio prima vederla questa riforma, capire che cosa c'è dentro? Perché mi sembra un aspetto non marginale dei rapporti fra i due stati. Arzilli ha risposto dicendo che così non è. Qual è il suo giudizio? Ma io credo che quella della legge sulle licenze indubbiamente possa essere una legge che va a mettere delle garanzie che la prassi scoperta da Licenziopoli ha dimostrato che non funzionava. Anche se a volte più che le leggi contano i comportamenti, e mi sembra che nel caso del quale parliamo ci siano state forse delle omissioni o degli errori da parte di chi era preposto nell'amministrazione a tenere certi comportamenti. Ecco, ma io le chiedo, se dipendesse da lei, se lei fosse ancora al governo, no, perché la voce della maggioranza che oggi governa San Marino, abbiamo sentito, hanno detto gli accordi vanno su un binario parallelo e dunque non convergente con la firma degli accordi, quindi noi procederemo separatamente. Ecco, ma se fosse lei oggi al governo, poi la stessa domanda la farò ad un altro ospite, anche lui dell'opposizione: lei li firmerebbe gli accordi prima della riforma della legge sui controlli o no? Ma sembra che questo aspetto sia più l'Italia essere a dover eventualmente chiedere garanzie. Mi sembra che le stia chiedendo anche oltre quello che sarebbe la norma, insomma. Quindi lei dice: fa bene San Marino a dire che le due cose devono essere separate, casomai è interesse dell'Italia chiedere garanzie su come sta procedendo la riforma di questa legge, su cosa conterrà e su come si faranno i controlli. Sbaglio? Sì, è così. Ma le dico di più, che se fossi io non avrei problemi ad andare a modificare, a rendere ancora più chiara e prescrittiva la normativa sulle società. Non avrei assolutamente problemi da questo punto di vista. Mentre invece mi pare di capire che secondo lei la maggioranza ha qualche problema? Non lo so, però mi sembra che questa sia la maggioranza che è più brava a fare i proclami piuttosto che avere comportamenti concreti e conseguenti. Perché facevo l'esempio della sentenza su Licenziopoli, che poteva dare al governo, all'amministrazione, la possibilità di andare veramente fino in fondo e di far punire coloro che comunque hanno recato un danno non solo economico ma anche d'immagine a San Marino. Quindi quello era un passaggio in cui si poteva dimostrare nei fatti, nella realtà, che si vuole fare sul serio. La volontà di fare sul serio. Bene, io ringrazio Fiorenzo Stolfi per la sua chiacchierata, ex segretario di Stato agli Esteri, leader del PSD, il maggior partito all'opposizione nella Repubblica di San Marino, e voltiamo pagina con un altro politico di San Marino, Piermarino Mularoni, che rappresenta il partito di DC. Buongiorno Mularoni. Buongiorno dottor Gallullo. Allora, volevo chiederle la sua opinione spassionata sul contenuto, su ciò che è emerso da questa sentenza Licenziopoli, che ha messo in evidenza una gravissima carenza dei controlli che ci sono stati certificati. Anche Arzilli, il segretario di Stato all'Industria, lo ha, come dire, descritta questa situazione, dicendo che stanno cercando di porvi rimedio con una commissione d'inchiesta, con una riforma di una legge che arriverà, e quindi volevo sapere la sua opinione al riguardo. Guardi, è difficile dare un'opinione comprensibile magari di una realtà come quella sammarinese. Anche noi siamo rimasti un po' sconcertati di questa sentenza che, archiviando, quindi come sentenza di archiviazione di tutta la questione, però evidenzia dei reati che evidentemente sarebbero stati commessi. Io credo che chi ha violato, se ci sono delle violazioni della legge, dovrebbe essere perseguito. Invece così mi pare che, mi corregga se sbaglio, non sia stato. Ecco, dalla sentenza, essendo un'archiviazione, tutto viene chiuso e in qualche modo insabbiato. Qui ci sono evidentemente delle responsabilità, non per quanto riguarda dei buchi legislativi, dal mio punto di vista, perché la legge è chiara. Ci sono delle responsabilità per quanto attiene i controlli e diciamo la continuità anche dei controlli dopo il primo rilascio della licenza. Ma infatti proprio di controlli si parlava, lei avrà letto quello che ho scritto sul blog, in cui chiedevo se fosse il caso di firmare gli accordi in assenza di una legge sui controlli. Qual è la sua opinione? Ecco, io credo che già la legge attuale prevede dei controlli che dovrebbero essere attuati. Allora qui bisogna andare a cercare le responsabilità degli uffici, se ci sono, certo, di coloro che sono preposti a raccogliere tutta la documentazione necessaria e a verificarne anche la veridicità. Qui ci sono dei professionisti che probabilmente hanno approfittato di una situazione, perché io non do la colpa agli imprenditori. Gli imprenditori sono affidati a dei professionisti, a degli intermediari che procuravano questi. Ed infatti gli imprenditori hanno dichiarato di non saperne assolutamente nulla di questa situazione. Esatto. Ecco, l'imprenditore non era tenuto a sapere se quell'immobile era già stato affittato ad un'altra società. Ecco ma io le vorrei chiedere questo. A parole il governo no, sta dicendo di mettere mano la situazione, ma nella realtà dei fatti i controlli a tutt'oggi non mi risulta che vengano fatti. Ecco, ricorderete invece, lo dico a lei, nella prima puntata Arzilli disse che già 60 attività sono state messe al bando perché i controlli funzionerebbero. Questo lo dico per correttezza dell'informazione. Ma le chiedo questo: lei gli firmerebbe gli accordi con l'Italia in assenza di una legge, di una riforma della legge del 2003? La stessa domanda che ho fatto a Stolfi, la stessa domanda che ho fatto ad Arzilli. Guardi, io ritengo che per far funzionare le cose non sia necessaria la riforma della legge del 2003, perché è sufficientemente chiara. Bisogna invece far funzionare i controlli e sanzionare chi non rispetta le leggi. Questo è il problema, quindi dare garanzie in questo senso, perché se vogliamo anche in Italia una legge che impedisce l'insediamento di più attività nello stesso locale non esiste. Esiste, quindi siamo più avanti. Assolutamente, infatti ne ho dato anche atto sul blog, quando un ragioniere che era intervenuto su un sito diceva siamo più avanti noi dell'Italia perché accadono cose strane, molto strane in Italia, Io ho riportato questo passaggio dicendo che effettivamente delle ragioni c'erano in quello che lui affermava. Mi pare di capire, ma ripeto, mi corregga se sbaglio, che lei è d'accordo con il collega Gerevini del Corriere della Sera, che in un articolo che ha dedicato al caso di Cenziopoli dice: la legge a San Marino c'è ma non può essere applicata perché manca l'archivio, e chi commette reato violandola se la cava perché è come se la legge non ci fosse. A San Marino ignoranzia legis excusat. Ma, guarda, io credo che questa sia anche una sorta di scusa. Ci vuole la volontà di punire realmente chi non si comporta correttamente. È tutta una questione di interessi economici. C'era chi aveva dei vantaggi nell'affittare dei locali a più società, e questo in qualche modo è rimasto coperto, pur non testimoniando che è motivo di economia mafiosa. Assolutamente, assolutamente. Le sentenze, l'ho detto più volte, vanno rispettate, però le sentenze a volte, come in questo caso, evidenziano che dei problemi ci sono, e San Marino sta lavorando alla sua soluzione, anche perché la soluzione a quei problemi sarà importantissima e vitale per i rapporti con il nostro Stato, lo Stato italiano, e con la comunità internazionale, che ha acceso i riflettori su questo Stato da tempo. Io ringrazio Mularoni per il suo intervento, grazie a tutti gli ospiti che sono intervenuti finora, grazie a Carmelo Lauricella in regia e a Laura Fagini in studio. Roberto Galullo vi dà appuntamento domani per una nuova puntata.